alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarre. Settima puntata. A scuola sono di gran lunga la più brava di matematica. Mentre io alzo la mano per rispondere, le mie 40 compagne tedesche, alte, bionde, grosse, stanno sedute intorno a me in silenzio. Ciò mi ripaga, almeno in parte, dei miei vergognosi fallimenti sulla scala svedese, dove resto impigliata tra le prime sbarre, circondata dallo stesso silenzio biondo, grosso, impassibile. Mi ripaga solo in minima parte, perché purtroppo essere bravi a scuola è un dovere. La mia mamma e mia sorella non sono brave in matematica, ma esserlo non è un merito. Me invece i numeri mi mandano in visibilio. Quando non leggo o non gioco, faccio calcoli sempre più lunghi, sempre più difficili. Ciò è considerato un po' raccapricciante. Non mi interessano le misure della mia camera, ma faccio calcoli che vanno oltre le stelle, ben oltre, forse vicino a lui che è più prudente non nominare. I numeri sono una scala che sale e non termina mai. Mentre così mi perdo tra gli zeri, rimpiango che sia un dovere essere bravi a scuola, che non sia un merito moltiplicare al volo 2340 per 2500. D'altronde, anche la mamma era bravissima a scuola, se non in matematica, in tutto il resto. E suo padre, il mio nonno Valdese, dal viso sottile, tagliato dal naso diritto e dalle labbra strette, la inseguiva sui voti perché lui era professore nella scuola che la mamma frequentava, il collegio di Torre Pellice. Quando la domenica lei faceva una gita in montagna, lui il lunedì mattina l'interrogava subito e con lei era ancora più severo che con gli altri, che già lo chiamavano il flagello. La mamma ha deciso che lei, le sue figlie, non le avrebbe mai tormentate sui voti, mai lodate neppure, si capisce? E applicava equamente la prima regola a mia sorella, la seconda a me. Il mio nonno ebreo Mosè mi lodava e io lo amavo, con cautela e senza dirlo, perché la mamma non lo amava affatto. E ciò metteva una cortina tra lui e me, una cortina di domande e di controlli sui suoi effettivi sentimenti verso la mamma. Non credevo che lui l'avesse in antipatia, come diceva lei. L'avevo ben visto quel giorno fermare nostro padre sulla soglia, eravamo tutti dai nonni, per impedirgli di correre dietro la mamma, che dopo avergli detto qualche cosa era fuggita rapidissima ed era uscita di casa. Il nonno si era intromesso tra lui e la porta e l'aveva chiusa alle spalle della mamma. Poi aveva sgridato nostro padre a voce alta e dura. Non aveva paura di lui. Più tardi, a Torre Pellice, mia madre mi disse che il nonno aveva testimoniato contro di lei nella causa di divorzio, perché lei era cristiana e gli ebrei si mettono sempre d'accordo contro i cristiani. Ciò mi causò un profondo disagio. Mi addolorò. Il mio ricordo del nonno, morto di malattia a pochi mesi di distanza dalla nonna nel 1940, ne usciva sminuito e diverso da come lo portavo nei miei segreti affetti. Lo sapevo giusto in cuor suo e mi chiesi perché mi era stato infedele. 40 anni dopo, leggendo per la prima volta il documento della sentenza definitiva del divorzio dei miei genitori, documento conservato tra le carte di mia madre che stavo riordinando, trovai una notizia che mi consolò. I nonni di Riga, testi al processo, avevano ambedue affermato che ritenevano meglio che noi fossimo affidate a nostra madre piuttosto che al loro figlio. Così mi fu restituito, seppure nella veste del testimone, Mosè Gersoni, il mio caro nonno. Quando gli cantavamo i nostri inni luterani, egli li ascoltava con attenzione. Una volta mi dà ragione alzando la voce improvvisamente contro mia sorella. Io avevo cantato che Dio era colui che aiuta, e Zizi invece che era colui che salva. Il nonno allora aveva osservato, alzando appunto la voce brusca, che Dio aiuta e non salva. Il nonno è l'unico adulto che parla con me di Dio. La mamma ha dimenticato di prepararmi all'esame di religione per essere ammessa alla scuola luterana. Avevo 8 anni. Mi chiesero chi è Dio e io, presa dal panico, non avevo saputo rispondere. Come non compromettermi? Dio è giusto, dice il nonno, ma noi, la sua giustizia, non la possiamo comprendere. Questo non mi va. Ci rimugino su. È un po' come la storia della mamma che ama i suoi figli perché ha sofferto nel metterli al mondo. Non è affatto ragionevole. Ma la fede non è ragionevole, mi spiegano a scuola. Io allora faccio il mio piccolo controllo privato. Un mattino, ritornando a casa, raccolgo un topo morto nella neve. Lo conservo nel cassetto del comodino della mia casa delle bambole. Ogni sera prego per risuscitarlo, ma non risuscita e quando diventa molle lo devo buttare via. E così, viceversa, non muore, nonostante le mie preghiere, la matrigna di una mia compagna di scuola alla quale avevo garantito il miracolo. Dio, quando si prega, lo si può tranquillamente nominare. Non racconto a nessuno questi miei esperimenti, li conosce soltanto mia sorella, la quale è cinica ma fedele. Mi avverte subito che il topo non risusciterà e la matrigna non morrà, però tiene il segreto. Al nonno Mosè non lo racconto, il nonno non crede che si risusciti. Ciò mi dispiace molto per lui che è vecchio e malato. Meno per la nonna, a cui non mi lega alcun sentimento particolare. La vedo poco perché spesso fuori casa passeggio con la zia Betty, sorella di nostro padre. Quando è in casa, il nonno le dice con voce tenera e ansiosa: «Non sei stanca, Anna? Non vuoi coricarti un po'?» Talvolta lei si alza dal letto e ci suona al pianoforte dei valzer. Zizi e io balliamo in tondo per la stanza. Un pomeriggio la nonna ha per il tè delle signore molto dipinte e ingioiellate. C'è anche, mi dicono, la prima moglie di nostro padre. Mentre passo accanto al tavolo, lei mi scruta con attenzione. Penso che sia per i miei capelli. Ho ereditato proprio dalla nonna Anna il colore biondo scuro. Tutti gli altri della famiglia sono neri. La nonna ripete spesso: «I miei smeraldi sono per le piccole». Non ricordo di averli mai visti, ma sono soddisfatta di ereditarli oltre i capelli, anche se nelle regole rientra una norma per cui portare troppi gioielli è di cattivo gusto, come è di cattivo gusto che i bambini indossino pellicce. Neppure i bambini ebrei avevano la pelliccia. Era pure di cattivo gusto accompagnare i bambini a scuola in macchina. Bisognava imparare ad andarci a piedi da soli. I parenti di mio padre erano in generale gente di cattivo gusto. Lo zio Talrose, il marito della zia Betty, che il nonno non poteva soffrire, era milionario e avaro. Questo lo sapevo dalla loro serva cristiana Marta, che essi imprestavano a giorni ai nonni. Nella loro casa buia e polverosa, la serva Marta stava in un bugigattolo accanto alla cucina verdastra. Una volta sentì il nonno osservare, a proposito di una malefatta di Marta, che la poveretta era cristiana e dunque stramba. Il nonno aveva adoperato i due termini yiddish, goi e meshog, invece del tedesco che egli parlava di solito, probabilmente perché io non capissi. Io invece capii benissimo, per cui sentii il dovere di manifestare a Marta la mia solidarietà cristiana. Andai dunque in cucina e cercai in quell'aria verdastra di conversare con lei. E lei continuava a ripetere che gli ebrei sono avari e che gli zii non le curavano i denti. Diceva che voleva ritornare in campagna e gemeva in modo indecoroso, toccandosi la pancia. Era una cristiana antipaticissima e senz'altro un po' mesciogga. Me ne ritornai in sala da pranzo. Un giorno andammo con nostro padre a una festa di suoi parenti. Era una tavolata lunghissima, una ventina di persone, o alla Pasqua o al matrimonio di mio cugino Benno. Tutti i parenti di cattivo gusto di nostro padre parlavano insieme ad alta voce, qualcuno cantava. Io stavo seduta tra i miei gomiti accostati e in questo piccolissimo spazio tutti mi lasciavano perfettamente in pace. Era come se quel posto fosse stato mio comunque. Avrei potuto discostare i gomiti, nessuno mi avrebbe detto nulla. Alle finestre c'erano vetri colorati. Ciò era di buono o di cattivo gusto? Non conoscevo nessuno dei parenti di mio padre, li incontravo di rado e siccome non ero affatto interessata alle vicende delle persone e le capivo poco, non ricordavo mai con chi erano sposati o da chi divorziati, di chi erano figli e a malapena che mestiere facessero. Rammento distintamente soltanto la zia Betty, sorella di mio padre, bonaria, ridanciana, e i miei due cugini, Benno e Saul, molto più vecchi di noi. Benno mi mise una volta per gioco, era gentile e affettuoso, in uno dei suoi stivali stava facendo il servizio militare. Saul mi offrì le mie prime paste torinesi nella sua stanza, mi pare in via Garibaldi. Studiava medicina a Torino per esercitare poi la sua professione in Lettonia. Trovai le paste ridicolmente piccole, ma assai più adatte a me delle gigantesche paste di riga. I miei cugini, i miei zii, gli altri della tavolata non sopravvissero al 1941. Quando mio padre e mia madre si separarono, non rividi più i nonni, né alcuno della famiglia di nostro padre. Ricordo di quel giorno di festa la strana impressione nell'udire qualcuno dire di noi: «Ecco le bimbe di Sammy». Non ero per nulla abituata ad essere attribuita a nostro padre, o almeno a nostro padre senza che vi fosse aggiunto il nome della mamma. Non ero in realtà abituata all'idea di appartenere a una famiglia. Non dicevo mai i miei genitori, ma Vati e Mut, e dopo la loro separazione mio padre e mia madre. Era ancora remoto dai miei sentimenti e dalle mie riflessioni il significato dell'asserto del tribunale che, pur affidandoci definitivamente alla madre, affermava che entrambi ci avevano ben trattate, contribuendo ciascuno per sua parte al nostro benessere. L'unico legame della mia infanzia fu quello con mia sorella, costante e non esaminato. La mia famiglia fummo lei e io. Di lei non mi chiedevo che cosa pensasse di me, e persino la mia gelosia nei suoi confronti non erodeva il mio attaccamento, riguardava mia madre. Nel cerchio di luce mia sorella fu sempre insieme con me, senza che per questo dovessi farne particolare cenno. Di parecchi episodi che ho raccontato, lei ricorda dettagli diversi. Di altri, nonostante l'esperienza comune che dicevo, ha addirittura una visione opposta. Dell'episodio della scala ricorda di avere appunto mangiato lo strato superiore di una scatola di ananas canditi. Dunque si leccava via lo zucchero, non la panna. E ricorda che sul coperchio stava scritto Göttingen. E afferma che giù per le scale urlava non di rabbia, ma di terrore, perché la mamma la stava minacciando di prigione a vita. Mentre eravamo nel castello, al limitare della foresta, essa aveva salvato e introdotto all'interno ben 21 uccelli di basso, trovati intirizziti e moribondi per la strada. Senza alcun aiuto di preghiera, si erano sgranchiti al caldo e si erano messi a svolazzare per gli androni. Dice anche di aver imparato a nuotare con gli altri ragazzini della fattoria proprio mentre ero a letto con la scarlattina. Nuotavano nel fiumiciattolo terso e pulito che scorreva a valle della fattoria, e io a letto rileggevo per la quarta volta il libro della giungla. Le è rimasto un certo patriottismo lettone e afferma che io non parlavo con il postino perché ero una snob. Pare inoltre che mi piacesse andare ai ricevimenti dove era capitato che una volta ci regalassero un anellino. Ricordo una certa delusione perché la pietra era rosso rubino e non azzurra. L'anellino era infilato sul manico del cucchiaino che accompagnava le coppette su una lunga tavolata. Quanto a nostro padre, Zizi racconta che in quei mesi in cui la mamma viveva ormai altrove, mentre io la sera dormivo già i miei sonni luterani, egli fosse solito portarla fuori. Zizi sedeva dunque da Otto Schwarz, una delle famose pasticcerie di Riga, e mangiava tutte le paste che voleva. Nostro padre, intanto, giocava a poker con amici sino alle 2 di notte. Così, riparlando della nostra infanzia, scoprii che per insolita e non letteraria coincidenza ricordavamo entrambe come momento più bello le nostre passeggiate sulla riva del mare, nei tramonti estivi, quando camminavamo per chilometri a piedi nudi cercando schegge d'ambra che si trovavano frammiste a detriti neri di alghe e di pezzetti di legno depositate sulla linea d'arrivo delle onde. Andavamo nella sera distesa e luminosa che non sarebbe mai divenuta notte, e la sabbia aveva lo stesso colore bianco argento del cielo. Sembrava che non dovessimo mai ritornare indietro, ma continuare a piedi nudi lungo il mare, nella cui placidità non si distingueva neppure lo sciacquio dell'acqua quando arrivava sulla spiaggia. Ogni tanto ci chinavamo a raccogliere un frammento aranciato e trasparente che poi riponevamo in una scatoletta di fiammiferi. Partimmo dalla Lettonia un mattino di luglio del 1935. La nostra partenza era stata ritardata da una mia malattia, la solita stupida e inopportuna malattia infantile. Mi ero appunto ammalata di scarlattina dopo aver covato per alcuni giorni un uovo di oca seduta in un cespuglio dietro la fattoria. Avevo attribuito i brividi della febbre alla consueta punizione divina per tale tentativo che sentivo vagamente sacrilego. La mamma mi aveva poi curata per le lunghe settimane di degenza che richiedeva allora la scarlattina, e io avevo imparato a leggere il francese sulle riviste che leggeva lei. Dovevamo partire da una stazioncina secondaria perché nostro padre faceva sorvegliare dai suoi poliziotti privati la stazione centrale di Riga. Ci caricarono con i nostri bagagli su un carro agricolo e ci avviammo attraverso il bosco, quello stesso in cui pochi giorni innanzi avevo visto, dalla finestra della mia camera, scomparire le fiaccole dei contadini la notte di San Giovanni. Mentre entravamo nelle ombre vaganti della foresta, vidi accanto al carro gli anatroccoli nati 2 settimane prima. Camminarono con noi alcuni passi, poi si fermarono. Incominciai a piangere, un pianto disperato e lungo. Li lasciavo nelle loro piume gialle e morbide e non li avrei mai visti crescere e nuotare poi nel ruscello. Dietro di me, come in un gioco fisso ormai per sempre nelle sue mosse, si fermava con loro la mia infanzia sul limitare luminoso del bosco. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.